Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 25 novembre, benvenuti di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, questo spazio quotidiano che va in onda un'ora al giorno, tutti i giorni, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV, e che fa da ponte tra il carcere e la città. Io sono sempre Caterina Bombarda, alla conduzione con Antonella Cortese di questa trasmissione. Ciao Antonella, bentornata. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Allora, ritorniamo sulle nostre notizie anche oggi e c'è una notizia che fa paura, davvero. La leggo dal Riformista a firma di Viviana Lanza. Ogni detenuto costa 154 euro al giorno per rieducarlo investiti 35 centesimi. Ecco, questo è un recente studio della Università Bocconi di Milano che ha messo in evidenza che ogni detenuto costa per l'appunto alla collettività 154 euro al giorno, di cui soltanto 6 investiti per il mantenimento del detenuto e appena 35 centesimi per la sua rieducazione, che per l'appunto sarebbe il fulcro dell'articolo 27 della Costituzione italiana. Questo significa, tradotto, che i soldi degli italiani, i nostri soldi, che lo Stato spende, non mirano all'attuazione del principio costituzionale della rieducazione. Non rieducare significa in realtà incrementare la recidiva. Sappiamo bene che in Italia, come sottolinea sempre lo studio della Bocconi, la recidiva, cioè il fatto di ricommettere lo stesso reato, è al 68%, ed è un dato che si abbassa considerevolmente, riducendosi al 19%, se solo vengono applicate le misure alternative come semilibertà e le forme di inserimento lavorativo. Quindi basta veramente pochissimo in realtà. Caterina, come si traducono questi dati allarmanti per quanto riguarda la recidiva appunto nella realtà? Questa è una domanda interessante, siccome anche lo stesso quotidiano Il Riformista se l'è posta e quindi ha anche provato a fare i conti, un po' i conti, per capire come si traduce questo nella realtà penitenziaria della regione Campania. A Poggioreale, per esempio, dove sono reclusi circa 2.000 detenuti, considerando i parametri dello studio della Bocconi, si calcolano 700 euro spesi al giorno per la rieducazione, quindi se fate i conti, 700 euro per 2.000 detenuti sono 35 centesimi, e a fronte di un totale di 308.000 euro spesi ogni giorno per la popolazione carceraria, 12.000 dei quali spesi per il mantenimento dei reclusi e il resto destinato a sostenere tutta la macchina amministrativa e strutturale del sistema carcere. Sono cifre che veramente fanno paura, fanno impressione. Caterina, francamente i conti non tornano, almeno non mi tornano, perché non capisco come viene impiegato il resto dei soldi che lo Stato destina al mondo penitenziario e in più come si può pensare a conti fatti di risollevare la pena alla funzione rieducativa, articolo 27 di nuovo, che attribuisce la Costituzione, destinando risorse così limitate alla rieducazione. Francamente non mi ci raccapezzo. Partendo dalla tua ultima domanda, sicuramente la spesa non è certo per rimodernare le carceri e adeguare le strutture a standard più umani di reclusione, se guardiamo le carceri fatiscenti che abbiamo nel nostro paese. La rieducazione, come dici tu, dovrebbe essere il nervo centrale della reclusione e dovrebbe essere il faro dei percorsi attivati in carcere per chi deve scontare una condanna. Scoprire che invece è l'ultima voce alla fine del cartellino, questo lascia molto pensare. E da sempre in Italia si discute sull'importanza secondaria che le viene riconosciuta. Con questa riflessione il giornale Il Riformista si aspetta che anche il sindaco della Campania, Gaetano Manfredi, trovi il tempo per sollevare una voce sul dramma delle nostre carceri. Del resto proprio a Napoli ospita due penitenziari importanti, che sono per l'appunto Secondigliano e Poggioreale, che è il più grande d'Italia e che sorge al centro della città. Nel 2018 si sperava nella mini riforma del ministro Orlando e ci si illuse che qualcosa potesse andare avanti, poi di nuovo con la pandemia ancora nulla, e ora ci si chiede: ci riuscirà la ministra Cartabia a cambiare qualcosa? Ecco, tra le priorità di un nuovo sistema penitenziario vi è chiaramente la necessità di tornare a un'idea di diritto penale minimo, liberale ma anche garantista, e del carcere come extrema ratio, come hanno sostenuto e sostengono ancora più volte i garanti regionali e nazionali delle persone prive della libertà personale. Rimaniamo sempre con la musica, prima di ritornare con te, Antonella, sulle notizie. Ritorniamo con Bruce Springsteen anche oggi. La canzone è Born in the USA, una delle canzoni più famose, registrata per l'omonimo album del 1984. Ascoltiamola e ci rivediamo tra poco. Eccovi, bentornati, sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Riprendiamo con te, Antonella, un po' il filo da ieri di questo bellissimo articolo che ci raccontavi su umorismo e felicità. Perché sono importanti? Allora, faccio un attimino un rapido riassunto di quello di cui abbiamo parlato ieri, no? Di quanto l'umorismo porti gioia e felicità anche nelle situazioni più difficili. E allora ci sono dei consigli che questo articolo, questa rivista scientifica ci ha regalato. Da questo breve excursus nella scienza dell'umorismo possiamo applicare appunto delle norme, no? Per migliorare la nostra qualità di vita e provare gioia il più spesso possibile. Allora, il primo consiglio che abbiamo da dare è evitate di essere austeri. Tu dirai, beh, che significa questa cosa? Il consiglio più ovvio quindi è di non essere austeri e di non essere privi di senso dell'umorismo. Quindi, insomma, ogni tanto una risatina, anche quando non vi sembra proprio che sia il momento, buttatela lì, vedrete che in qualche modo aiuta. Anche persone, soprattutto anche le persone che provano senso di colpa nel comportarsi in modo allegro, ce ne sono tantissime, perché siamo in un mondo di persone preoccupate, siamo tutti preoccupati, le preoccupazioni sono legittime, però non è male lasciarsi andare a una risata, non toglie niente. Secondo alcuni la spensieratezza è inappropriata, infatti, se ci preoccupiamo di crisi e ingiustizie, ma è un errore pensarla in questo modo, visto che l'austerità non risulta attraente per gli altri e di conseguenza nuoce anche alla vostra causa. Naturalmente ci sono casi in cui l'umorismo è totalmente fuori luogo. Per esempio, ricordate il discorso del tempismo che facevamo proprio ieri. Però, se si azzecca il momento giusto, l'umorismo ci sta veramente bene. Infatti, i ricercatori hanno scoperto che due ideologie particolarmente prive di senso dell'umorismo sono il fondamentalismo religioso e il militarismo. E infatti non sorprende che il clima ideologico fondamentalista e pugilistico, per così dire, che si respira in alcuni paesi, sia anche così privo di umorismo e che i politici fondamentalisti siano così pronti a usare come arma gli attacchi contro l'umorismo. Non si possono più pubblicare vignette, barzellette, non si può prendere in giro nessuno, il sarcasmo, l'umorismo, vengono messi al bando. Per essere più felici, non partecipate alla guerra contro le barzellette, per favore. non preoccupatevi di essere divertenti, ecco, perché se no si va in ansia da prestazione, no? Uno deve per forza essere divertente, se no dice oddio, se no sembro infelice, non faccio ridere. Alcune persone infatti adorano le barzellette ma non sono capaci di ripeterle. Io sono tra quelle, tra l'altro. Un mio amico, tutte le volte che cominciava a raccontare una barzelletta, per esempio, prima ancora di arrivare alla fine rideva, rideva tanto che nessuno capiva più che cosa stesse dicendo, ma soprattutto non capiva la battuta finale, che è fondamentale. E la sua tecnica per raccontare le barzellette sicuramente non era un granché, bisogna ammetterlo, ma inavvertitamente aveva scoperto uno dei segreti della felicità, cioè consumare umorismo è molto meglio che fornirlo. Ed è anche più semplice se ci pensiamo. Le persone divertenti tendono tra l'altro ad avere delle particolari caratteristiche neurologiche innate e di solito un'intelligenza superiore. Le persone a cui piacciono le cose divertenti danno semplicemente priorità all'umorismo, coltivano la capacità di apprezzarlo e si concedono anche la possibilità, di ridere. E per ottenere i benefici dell'umorismo in termini di felicità, lasciate pure che siano gli altri a raccontare le barzellette, non vi preoccupate di dover essere per forza divertenti o di dirle voi. Ascoltate e ridete. E passo anche al terzo consiglio a questo punto, Caterino. Siate positivi. È provato che le barzellette negative, dannose o eccessivamente cupe, esercitano una forza corrosiva sul benessere vostro e degli altri. Gli effetti negativi sulla felicità sono in alcuni casi piuttosto diretti, come quando si prende in giro qualcuno ferendolo, oppure si dice che si preferirebbe essere morti o si raccontano barzellette che denigrano gruppi di persone. Beh, però Antonella, potremmo dire che nel periodo della pandemia in qualche modo l'umorismo ci ha salvato la vita, vero? Eh sì, Caterina, infatti può alleviare il fardello che abbiamo sopportato collettivamente per più di un anno e mezzo. Infatti c'è anche una ricerca, quella che in effetti avevo già citato prima, secondo la quale l'umorismo ha una caratteristica quasi anestetizzante, abbassa la concentrazione sul dolore e ci permette di ricordare le gioie della vita. Questo è molto importante nei momenti cupi. Voglio fare un riferimento addirittura a Giovanni Boccaccio, quindi siamo nel 1353, anno in cui fu scritto, anzi terminò il Decamerone, mentre la peste nera imperversava in Europa, uccidendo probabilmente quasi un terzo della popolazione. Il libro è composto da 100 racconti comici, narrati da 10 amici, 7 donne e 3 uomini che trascorrono insieme un periodo di quarantena in una tenuta di campagna per evitare la pestilenza. E questo libro ebbe talmente tanto successo, che fu portato un po' in tutta Europa, portando un po' di sollievo dalla paura della malattia e dalla noia dell'isolamento. E noi sappiamo che cos'è perché ci stiamo passando, anzi ci siamo passati in realtà, mentre la peste in quel periodo continuava a dilagare. Ovviamente non evitava i temi della malattia e della morte, ma non le enfatizzava neanche. Il punto fondamentale era che la vita può essere piuttosto esilarante anche in condizioni terribili, ma scoprirlo dipende sicuramente da noi e dal nostro atteggiamento. Questo vale anche per oggi, nella situazione in cui viviamo in questo momento, perché la vita è piena di tragedie e tristezze, ma allo stesso tempo è piuttosto divertente, dobbiamo ammetterlo. E proprio per continuare ad essere, insomma, col sorriso sulle labbra, direi, ascoltiamo Bobby McFerrin con Don't Worry, Be Happy. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. No place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate, but don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ben trovati, sempre su Liberi Dentro di Radio TV, la seconda parte con l'ospite continua già da due giorni con Isabella Matulli. Ciao Isabella, sempre con noi su Liberi Ciao. Dentro. Ciao. E sempre missionaria AMI e anche volontaria AVOC. Ieri abbiamo parlato dei paesi all'estero in cui AMI opera, ma rimanendo oggi sul suolo nazionale italiano, so che siete presenti nella sede di Faenza e da qualche anno anche a Fognano, a Brisighella, dove si trova il Centro Missionari della Speranza. Ci puoi raccontare tu questa realtà? Sì, a Faenza abbiamo la sede e in realtà abbiamo anche tanti amici e gruppi di appoggio o appunto gruppi GIMA, di impegno missionario, in Puglia, in Sicilia, e amici un po' sparsi per tutta l'Italia che ci danno una mano in vari modi. E, ecco, per quanto riguarda Fognano, anche quelle sono quelle situazioni capitate un po' per caso. Noi periodicamente facciamo container da mandare prima in Eritrea e adesso in Tanzania, e siamo sempre stati ospiti di amici che ci ospitavano appunto nei loro capannoni in questi vari materiali. È chiaro che quando sei ospite gratuito è perché il capannone poi dopo magari viene messo in vendita, è cadente, eccetera. Per cui stanchi di dover prendere sempre su armi e bagagli ogni due anni, e alla fine abbiamo detto, beh, proviamo ad affittarlo. Affittare un capannone, vi garantisco che è meglio, insomma, mettere dei materiali in un attico. E, insomma, per farla breve, abbiamo trovato, diciamo, a 15 km da Faenza, in località Fognano, questo capannone agricolo, e con casa da ristrutturare praticamente allo stesso prezzo. Per una serie di situazioni provvidenziali potevamo procedere a questo acquisto, ma in realtà noi della casa non sapevamo bene cosa farcene. E l'abbiamo sistemata un po' con calma, con l'aiuto di volontari, eccetera, e l'idea era di destinarla magari all'accoglienza di gruppi. Quando poi nel 2015 Papa Francesco ha invitato appunto ad aprire gli istituti religiosi o le canoniche o le case ai migranti, ci siamo sentiti ovviamente interpellati, perché ci siamo detti, ma come, noi si va in Africa, ora che gli africani vengono qua, no? Non li vogliamo accogliere. E quindi, diciamo, dal 2016 al 2019, appoggiati alla Caritas diocesana di Faenza, abbiamo intrapreso appunto un'accoglienza di donne e bambini migranti attraverso quello che si chiama CAS, Centro di Accoglienza Straordinaria. Niente, poi questa accoglienza si è dovuta concludere nel 2019 perché sono mutate le condizioni, è uscito il decreto sicurezza Salvini, sono mutate anche le condizioni di accoglienza, condizioni che hanno un po' ammattato quella che viene chiamata l'accoglienza diffusa, cioè quelle realtà che accolgono numeri piccoli di persone e cercano di una gestione quasi a condizione familiare. Per cui, ecco, abbiamo preferito non proseguire a quelle condizioni, che significava dare solo vitto alloggio alle persone, non ti permetteva di utilizzare fondi per la loro integrazione, ma siccome siamo un po' testoni, ci siamo rivolti immediatamente alla comunità di Sant'Egidio a Roma per iniziare il progetto dei corridoi umanitari, no? Per questo, certo. Nel settembre del 2019. Sapete benissimo cosa è successo nel 2020. Ecco, nonostante il Covid, all'11 novembre del 2020 sono arrivate le prime mamme con i bambini, quindi abbiamo accolto 3 mamme e 4 bambini eritrei. E quindi, diciamo, è un po' un cerchio che si chiude, no? in un certo senso, e l'accoglienza dura tuttora. Per fortuna mi viene da dire che siete stati testoni, come dici tu, perché allora alle altre realtà che si occupano di accoglienza per richiedenti asilo avranno dovuto, se non sono state testone come voi, avranno dovuto cambiare i loro piani, perché mi chiedevo che cosa significa operare in questo settore da quando il decreto sicurezza ha cambiato un po' tutto, ecco. Sì, purtroppo questo tipo di decreto ha tolto intanto un tipo di permesso, cioè la possibilità di avere i permessi umanitari che generalmente, ad esempio, alle donne venivano comunque concessi. Allora, togliere un permesso significa fare, diciamo, creare delle situazioni di illegalità, no? Perché è utopico pensare che una persona che ha fatto di tutto, ha rischiato la vita, ha speso dei soldi per raggiungere il nostro paese, no? Poi semplicemente perché le viene negato il permesso, questa persona lasci il territorio. Questa persona ovviamente diventa illegale e non ottenendo il permesso viene messa fuori dalle strutture, no? Perché ovviamente questo tipo di strutture non ricevono più le sovvenzioni, e questa persona, diciamo, scompare dai radar, no? della nostra società, salvo poi riemergere magari in fatti di cronaca nera. Chiaramente questo modo di operare è anche abbastanza frustrante, perché immagino che comunque chi fa accoglienza di migranti generalmente, no, avrebbe anche piacere che questo portasse ad un esito, no, anche cioè, dell'integrazione della persona, eccetera. Quindi direi che non è tanto un fatto economico, cioè la riduzione del contributo che viene erogato per l'accoglienza che ha creato problemi, sì, anche quello, ma è proprio la mancanza di prospettive che si è creata, insomma, questo circuito che crea illegalità, no? Salvo poi spendere soldi per difenderci dall'illegalità che noi stessi creiamo. Ti chiedo un parere personale: secondo te quanto conta la cultura del nostro paese verso l'apertura al prossimo, come insegna anche l'associazione di cui fai parte? Cioè, quanto conta, ecco, la nostra cultura per immaginare scenari migliori, anche politicamente migliori? Ma io ho notato un po' questa cosa, cioè queste due cose. Allora, da un lato noi italiani, quando si tratta di questioni un po' particolari, come può essere il tema immigrazione, ma senz'altro anche il tema carcere, siamo portati ad un approccio un po' di pancia, no? Facciamo un po' fatica a fare una riflessione serena, magari anche a partire da dati. Questa è una cosa. L'altra cosa è un atteggiamento che mi stupisce, nel senso che appunto io da un anno ormai vivo a Fognano e con queste persone accolte, e il comune di Brisighella, quindi lo stesso paese di Fognano, hanno un'amministrazione fortemente, estremamente di destra, no? Ha vinto le elezioni proprio facendo leva, no? sulla paura all'immigrazione, eccetera, salvo poi vedere tantissime persone che vengono a fare volontariato a favore di queste donne, di questi bambini eritrei, si sono affezionati, eccetera. E mi viene da pensare, ma pure molto probabilmente sono le stesse persone che hanno comunque fatto un certo tipo di scelta politica, no? Quindi diciamo che l'invito è, quando si tratta di persone, ecco, non affrontarle come problemi, ma provare a conoscerle, perché poi quando le si conosce, no, sia nell'ambito migratorio ma anche nel tema carcere, mi verrebbe da dire, quando le si conosce diventano persone con un nome, un cognome, una storia, e ci si fa coinvolgere. E questo, ecco, in questo senso noi italiani, cioè la nostra cultura, diciamo, è positiva, no? Cioè l'emotività che mettiamo nel reagire in un certo modo, poi la mettiamo anche nell'affezionarci. Assolutamente sì, ma di questo parleremo domani. Lancio un'altra canzone a fine della nostra intervista con i Passenger, Home, e ci rivediamo dopo per i saluti finali. Grazie Isabella, a domani. They say home is where the heart is, but my heart is wild and free. So am I homeless or just heartless? Did I start this? Did it start? They say fear is for the brave, for cowards never staring in the eye. So am I fearless to be fearful? Does it take courage to learn how to cry? So many white roads, so many miles to go. Anche oggi, dopo aver ascoltato Isabella Matulli, missionaria dell'ANE e volontaria dell'AVOC, vi diamo appuntamento per le nostre rubriche a seguire. Abbiamo le pillole di Antigone con uno sguardo sulle carceri dell'Emilia-Romagna, a cura per l'appunto della sede regionale di Antigone, e a seguire la comunità educante con i carcerati, il cosiddetto CEC di Casa Betania, che ci racconta un po' dalle origini, come è nato, dal primo accolto ad oggi. Seguiteci, scriveteci, la redazione liberidentro@gmail.com. E come al solito un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, da Enea Flacco, dalla nostra tirocinante Diana Bota, e a domani. Grazie a tutti. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.